A spese va feta, altrimenti non se mangia. Belin, figge, cosene, tu capa, peccampa. Dimmi un po' ti, chi ne che se guagnemmo, chi palanche, nughe nughe ne, nughe nughe ne. Nughe nughe nughe ne se mu misci mu se nughe ne chi palanche nughe ne mu chi palanche nughe nughe ne nughe nughe ne nughe nughe nughe ne se mu misci mu se nughe ne chi palanche nughe ne mu e cure un mego e tasce e mirte a fea a salunga porta feggio o sa strenze Belin figge chi le in gran casin pe campa come se fa besorie questa lagna. Ma papà, ma è Masino. Masino Garibaldi, basta con questa lagna.